È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Siamo qui, 18 e 36 minuti in punto, i numeri per chiamarci in diretta, per chiamare in diretta la Zanzara fino alle 21, come sapete, anche oggi 800 24 0024, il numero verde, sms 349 238 6666, la Zanzara @radio24.it. Andiamo subito al TG2. Stasera la Via Crucis con Benedetto XVI. Il predicatore pontificio paragona gli attacchi al Papa sui casi di pedofilia a quelli contro gli ebrei. Il governatore del Piemonte Cota frena sulla pillola abortiva, non andrò contro la legge. Il richiamo del ministro della Salute Fazio sul rispetto delle norme. Allarme valanghe in Trentino Alto Adige, 3 morti in poche ore a provocare gli smottamenti, il rialzo delle temperature dopo le forti nevicate dei giorni scorsi. E per le feste pasquali in movimento 10 milioni di italiani, traffico sulle strade, benzina record oltre quota 1,4, il pieno costa 10 euro in più rispetto all'anno scorso. Sulla vicenda dei governatori del Veneto e del Piemonte, che oggi hanno fatto entrambi marcia indietro rispetto alle dichiarazioni di ieri, o comunque hanno molto ridimensionato la loro intenzione di andare contro la legge, c'è la meravigliosa Iena, Riccardo Barenghi, di oggi. Governatori dell'utero, una sola riga così, governatori dell'utero. Studio aperto. Via al Ponte di Pasqua, 12 milioni in viaggio, un italiano su due non rinuncia alla mini vacanza. Esodo da Bollino Rosso e sulle autostrade il traffico è già intenso, ci colleghiamo in diretta. Ma in montagna, una delle mete più gettonate, è allarme valanghe. Oggi 3 vittime in Trentino, la neve fresca appena caduta su tutto l'arco alpino ha fatto aumentare il livello di rischio. Ho subito una grave ingiustizia, ma nessuno mi ha chiesto scusa. Per la prima volta dopo la sua assoluzione parla Alberto Stasi, il biondino di Garlasco. Amavo Chiara, dice, è sempre nel mio cuore. Affittiamoci un canotto e prendiamo il largo verso il mare blu. Oh, oh, oh, caro, remo un po' io, remo un po' tu. Ma vi pare seria una discussione come quella a cui ho assistito ieri sera ad Anno Zero sul canotto di Grillo? Il fatto che Grillo si sia presentato in una piazza, credo fosse Bologna, non so dove, con il su un canotto sostenuto dai suoi fan, secondo Marco Travaglio significa che lui lo può fare e nessuno lo fa cadere, mentre nessun politico sarebbe in grado di farlo, perché non avrebbero consenso, lo farebbero cadere subito. Sentite. C'è un'immagine che parla più di qualunque saggio politologico. C'è Grillo dentro un canotto che attraversa le piazze portato a braccia dalla gente. Vuole dimostrare che lui si fida dei suoi, perché ne basterebbero due che lo lasciano cadere e si fracasserebbe la schiena. Per ora l'hanno tenuto su tutti ed è rimasto tutto intero. Ecco, quanti politici italiani se la sentirebbero di mollare la scorta e sottoporsi al rischio della prova canotto? La prova canotto. Secondo Travaglio, dunque, la prova canotto sarebbe fondamentale, come dire, per valutare il consenso dei politici o la loro vicinanza alle persone, agli elettori, non so che cosa. Fatto sta che da Santoro Grillo viene messo su un piedistallo, come fosse un personaggio cui affidare le sorti del paese. Sentitelo Grillo, ieri sera. Noi abbiamo la strategia del putaniere che stiamo esportando. Cambiando le chiamiamo escort, bastiamo il valore delle parole, perché se cambiamo il significato delle parole non ci capiamo più. Escort, niente, sono delle puttane! Italiano. E la gnocca, è chiaro che fai trombare, se fai trombare Bondi, una gnocca con due tette così te lo porti fino alla tomba! È gente frustrata, non ha mai scopato in vita sua, ma non le famiglie, le prime due tette gonfie che vedono fanno lavorano, ma mollano famiglia, sono dei disperati, lavorano 23 ore al giorno, perché le mogli e le famiglie li mandano fuori di casa. Ma chi si vorrebbe cambiare con questa gente qua? Chi? Ti cambieresti con Gasparri, ma è cazzo di... Aspettiamoci un canotto. Questo Grillo, naturalmente no ieri sera in diretta, ma qualche giorno prima in una piazza italiana. Quando ha sentito... quando ha visto il filmato di Grillo che ha detto le cose che ha detto, le avete sentite? Emilio Fede, ospite ieri in collegamento, se n'è andato. Io, guarda, sono veramente esterrefatto che si possa guarda, l'educazione, la mia educazione, il rispetto per l'informazione hanno fatto sì che sono rimasto qua. Io trovo che è inascoltabile, è vergognoso, il culo, il cazzo, la scopata, ma che vergogna! Io ti assicuro, Grillo è un imbecille, metaforicamente parlando, è un imbecille, e non si può mettere in una trasmissione dove c'è stato un confronto, direi civile, e va bene Cornacchione, ma una cornacchia proprio no. Questo è veramente la vergogna delle vergogne, e voglio dire, non si può accettare. Io con quel canotto saprei dove buttarlo, nel fiume Lambro. E questo era Emilio Fede, e fin qui la discussione va bene. Quello che non capisco è quando i politici si concentrano su anno zero, cioè c'è una discussione continua su quello che viene fuori da anno zero. Va bene che la trasmissione ha ottenuto grandi risultati d'ascolto, ma è diventata ormai quella davvero la terza camera e non più porta a porta. Per esempio Daniela Santanchè dice delle cose incredibili, delle cose incredibili. Sentitela contro anno zero, perché lei non sa le lettere che ricevo, le email che ricevo di intere famiglie, credo la maggioranza degli italiani, che dicono basta pagare per queste trasmissioni che sono diseducative, che insegnano la falsità, che insegnano l'odio, che insegnano la cattiveria, vorrebbero veramente sottrarsi. Secondo la Santanchè, la prova provata che durante la trasmissione di Santoro si falsifica la realtà sarebbe per esempio il titolo che appariva dietro Santoro, cioè Berlusconi, ha vinto Berlusconi, punto interrogativo, le elezioni regionali. Secondo la Santanchè non era il caso di mettere punto interrogativo. Perché mettere punto interrogativo? Io sono convinta che Santoro si sta dando la zappa sui piedi e è un boomerang, perché ogni volta che va in onda aumentano i consensi per il Partito delle Libertà. Santoro, gli italiani hanno capito come manipola, come falsifica quella che è la realtà. Bastava vedere il titolo di ieri sera che diceva ha vinto lui, punto di domanda. Io credo che potremmo discutere su tutto, come è giusto che si faccia, ma non si può discutere su chi ha vinto le elezioni, che è sicuramente Silvio Berlusconi. Ma insomma, secondo la Santanchè non si può porre nemmeno la domanda, cioè la scritta che è apparsa ieri, non so se per tutta la trasmissione oppure no, cioè ha vinto lui o ha vinto Berlusconi, non so come fosse, beh, insomma, significa che Santoro voleva porre in dubbio la vittoria di Berlusconi. Ancora un appello alle mamme, non so a che cosa, contro Santoro. Faccio un'altra osservazione, non da politico ma da madre. Vedere usare quei comici, vedere usare quelle parolacce, quegli insulti, è un esempio che credo che tutte le mamme italiane non vogliono per i propri figli. Una televisione che diseduca, una televisione che insulta, che è cattiva, che è offensiva nei confronti non soltanto del Presidente del Consiglio, delle donne, come abbiamo visto Beppe Grillo, lo dico da mamma, è una televisione alla quale bisogna sottrarsi. Siamo qui alle 18.46, 800 24 00 24. Prendiamo seriamente questa provocazione, ma non è solo una provocazione di Alessandra Mussolini, perché potrebbe essere un'idea, dato che Repubblica, per esempio, attraverso un articolo del suo direttore Zio Mauro, che cosa ha fatto? Ha lanciato l'idea di un papa per il Partito Democratico da trovarsi all'esterno del Partito Democratico. Qualcuno pensa addirittura a Roberto Saviano. E perché non pensare allora a Michele Santoro, Alessandra Mussolini? di fatelo diventare leader del PD, togliete Bersani, mettete Santoro, che già è stato europarlamentare, e così ha chiuso, no? O parla e almeno fa qualche cosa, perché ormai non è che lui conduce una trasmissione, fa parlare Grillo, che ha tolto i voti a Di Pietro, perché c'è una lotta tra Di Pietro e Grillo ed è fantastico. Beh, insomma, guardate che non è folle la cosa, anche perché Santoro si paragona ormai ad Obama dopo il successo di Rai per una notte. È successo che in qualche maniera abbiamo potuto vedere, per esempio, che su Twitter c'erano, a livello mondiale, stiamo parlando del social network più importante che c'è al mondo, c'erano due eventi che si affiancavano. Obama, che aveva parlato della riforma sanitaria, e facendo impazzire tutti gli osservatori del mondo, Rai per una notte. Rai per una notte come Obama. Fabio da Roma, buonasera. Buonasera. Fabio, deve abbassare o chiudere la radio, grazie. Subito. Un attimo solo. Prego, dove ecco si trova qua. Fabio? In autostrada per andare a Fiumicino, infatti ora mi devo accostare immediatamente in corsia, se no qua mi levano punti, patente, cellulare. Lei dove va? Parte per le vacanze di Pasqua? Sono accostato, ora possiamo chiacchierare un attimo. Lei parte per le vacanze di Pasqua, Fabio? No, vado a prendere un'amica in aeroporto, che viene lei a trovarmi per un weekend. Bene. Allora, vi ho contattati perché ho un'esperienza da raccontare. Io sono stato uno dei fondatori, uno degli ultimi fondatori, infatti facevo parte del consiglio direttivo di uno dei famosi club di Grillo, che si chiama Volontà Popolare, ed è di Roma. Volontà di Roma. Popolare? Volontà Popolare, era il nome del nostro club. Sì. Fabio, però la radio veramente me la deve spegnere, definitivamente, perché altrimenti sentiamo un ritorno fastidioso. Va bene adesso? L'ho chiusa. Sì, certo, se l'ha chiusa va benissimo. Allora, vi stavo raccontando questa storia. Sì, lei è stato esperienza. Il fondatore di un club di Grillo, allora? Uno dei soci fondatori, perché sì. Era il periodo in cui ci fu questo famoso V-Day, che ebbe milioni di consensi in tutta Italia, poi ci fu un secondo V-Day ad aprile, che ebbe anch'esso tantissimi consensi. Insomma, c'era un grande fermento un pochino in tutta la penisola, sorsero molti club. Questo qui, in cui ci trovavamo noi, era un club che inizialmente doveva essere apolitico, nel senso di non schierarsi né a destra né a sinistra, come inizialmente dovrebbero essere stati tutti i club di Grillo. Abbiamo iniziato a fare un po' di soci, a diffondere le nostre idee, che sono le idee, diciamo, più o meno propugnate da Grillo, cioè Parlamento pulito, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Al momento che arrivarono le elezioni comunali, quelle che a Roma vinse Alemanno, nacque il problema. Qui che facciamo? Ci presentiamo? Un grande affare a raccogliere le firme, e riuscimmo anche a raccogliere le firme. E poi che è successo? È successo che una parte del nostro circolo si schierò a sinistra, molto a sinistra, riuscendo a convincere la maggioranza dei fondatori, anzi del consiglio direttivo, a unirsi all'Italia dei Valori. Ho capito. Io da quel momento ho detto: alte, allora mi avete fatto fare tutto sto mazzo di lavoro per niente, perché l'Italia dei Valori sta schieratissima a sinistra, noi non dovevamo stare né a destra né a sinistra, essere autonomi, indipendenti da questi giochi di potere. E infatti poi hanno fatto delle riunioni in cui venne anche gente dell'estrema sinistra, molti dei Verdi, molti degli ex comunisti. Beh, Fabio, la ringrazio di questo intervento. Sembrava di stare gli anni 70, gente con la tolfa, col manifesto, il megafono. Vabbè, adesso al di là del megafono, delle borse di non so che cosa e del manifesto, è un po' quello che sta succedendo, questa diatriba che c'è tra De Magistris e Grillo. Sulla creazione di un movimento in cui ci siano dentro anche i club di Grillo, la rifondazione dell'Italia dei Valori, tutte queste inutili discussioni, cioè inutili, queste discussioni un po' surreali che ci sono tra i più puri degli anti-berlusconiani. Enzo da Rimini, buonasera. Ah, buonasera Cruciani. Dica. Salve. Io volevo fare semplicemente una constatazione. Volevo dire che con questo suo modo di fare, comunque costante, che ha Grillo, di esprimere le sue opinioni circa i personaggi politici, alla fine si è rivelato uno dei, non dico il migliore, ma comunque un alleato di Berlusconi, visti i risultati. In che senso, mi scusi? Nel senso senso, cioè ha tolto voti alla Bresso, ha tolto voti alla Bresso, ma non solo. Vabbè, ho capito, ma quei voti non si possono sommare a quelli della sinistra, Enzo. Perché lei vuole fare l'operazione di sommare quei voti lì a quelli della sinistra? Non lo capisco. Ma perché io voglio semplicemente dire che sono stati voti tolti alla sinistra, ha capito? No, ma non è detto, non è detto. Ma no, allora guardi, cioè, io mi scusi, Enzo, scusi un attimo. Guardi, le faccio riascoltare il piccolo pezzo che hanno mandato ieri ad Anno Zero di Grillo. E secondo lei, per capire, secondo lei un personaggio che si esprime in questo modo è legittimo? Non sto, a parte che la differenza tra il comico, in questo caso, e il politico è irrintracciabile, non si sa dov'è il confine ormai. Ma come si può pensare che un partito come il Partito Democratico si possa avvicinare a una cosa di questo tipo? Sentite. Noi abbiamo la strategia del putaniere che stiamo esportando. Cambiando, le chiamiamo escort. Bastiamo il valore delle parole, perché se cambiamo il significato delle parole non ci capiamo più. Escort, niente, sono delle puttane! Italiano! E la gnocca, la gnocca! È chiaro che fai trombare, se fai trombare Bondi, una gnocca con due tette così te lo porti fino alla tomba! È gente frustrata, non ha mai scopato in vita sua, mollano le famiglie, le prime due tette gonfie che vedono, parlano, ma mollano famiglia, sono dei disperati, lavorano 23 ore al giorno, perché le mogli e le famiglie li mandano fuori di casa. Ma chi si vorrebbe cambiare con questa gente qua? Chi? Ti cambieresti con Gasparri, ma che cazzo di... Allora Enzo, non so se ci rendiamo conto, per carità è un pezzo di comicità straordinario, ma cosa c'entra con la politica tutto questo? Io mi riferisco alla sostanza, cioè tutto, sì, ma non è, lasciamo perla, che c'entra la sostanza? La sostanza la sappiamo, le proposte di Grillo le conosciamo, dopodiché il personaggio è questo, è quello che abbiamo sentito. Il personaggio, allora, non è quello che abbiamo sentito, il personaggio è un'altra persona. Quando parla di questa cosa, c'è uno sdoppiamento della personalità, non mi spieghi? No, lo sdoppiamento della personalità. Allora, per lo sdoppiamento della personalità, io non voglio discutere i contenuti, o comunque io voglio dire semplicemente a che cosa ha portato questo suo modo di fare, capisce? Io voglio dire, io avendo fatto il presidente di un seggio elettorale, io ho visto i voti che ha preso Grillo qui a Rimini, no? Sì. Ho visto voti dati a Grillo, ma non sottratti al PDL, vi dicendo. Io ho visto nella mia sezione voti dell'UDC che sono stati molto inferiori a Grillo, capisce? Quindi, secondo lei i voti dell'UDC sono andati a Grillo, mi pare complicato. Allora, io questo non lo posso dire perché il voto logicamente è segreto, però non lo trova abbastanza insolito. Io penso che Grillo possa prendere voti dappertutto, possa pescare in qualsiasi tipo di bacino, perché magari sono persone che scontente per mille motivi e votano Grillo così per un senso di protesto, oppure perché credono in alcune proposte di Grillo. Comunque, secondo lei ha tolto voti alla sinistra? Secondo me non sono voti che si possono sommare a quelli della sinistra, in particolare, o comunque a quelli del Partito Democratico, in particolare nel Piemonte, dove le due piattaforme programmatiche, chiamiamole così, una parola grossa, erano completamente diverse, per esempio riguardo alla TAV. Antonio D'Alecco, buonasera. Buonasera, Cruciani. Allora, io chiamavo per fare un po' una constatazione su quanto detto dalla Santanchè. Tutti i politici, ovviamente schierati area PDL, non fanno altro che dire che ogni trasmissione di Santoro è uno spot per il PDL, però io continuo a non capire come mai allora questo spot si tende a bloccarlo. Che continui a fare queste trasmissioni, tanto sono uno spot, non vedo il problema. Sì, ma lei ha ragione, Antonio. Infatti, da una parte si dice che ci portano, da una parte si dice che ci portano voti. Questa è la linea, per esempio, di alcuni quotidiani vicini al PDL. E dall'altra si attacca Santoro. Ma è un gioco delle parti. Ma infatti, io ricordo quando c'era l'intervista della D'Addario, perché molti radioascoltatori magari sono un po' disattenti. Ma quando c'era stata l'intervista della D'Addario, non si sapeva se l'intervista sarebbe andata ad Anno Zero o a Ballarò. A Mediaset impazzivano, perché lei sa che poi la politica si fa anche con la controprogrammazione. Ah no, certo. Antonio, scusi un attimo, io vorrei riprendere dopo il giornale radio, seguendo questa provocazione della Mussolini. Santoro, leader del Partito Democratico. Di fatelo diventare leader del PD, togliete Bersani, mettete Santoro, no, che già è stato europarlamentare, e così ha chiuso, no? O parla e almeno fa qualche cosa. Eccoci qui alle 19.17, siamo tornati con la Zanzara, i numeri di telefono per chiamarci, soprattutto il numero verde 800 24 00 24, andiamo a sentire i titoli del TG3. Cota frena sulla pillola abortiva, sono contrario ma non vado contro la legge, PDL diviso, il PD guerra ideologica, decidono i medici. Pedofilia, il procuratore Forno aveva accusato omertà nella chiesa, Alfano dispone un'ispezione, il Vaticano contro di noi in una campagna che ricorda l'antisemitismo. Nel 2009 il rapporto tra deficit e PIL è salito al 5,2%, il peggior dato dal 96, meno entrate più spese, scompare l'avanzo primario, tragedia in montagna, due valanghe sulle Alpi, muoiono tre persone a Moena e Solda, i pericoli della neve fresca. Spunta un testimone segreto per l'omicidio di Pasolini, ha consegnato una memoria scritta ai magistrati, potrebbe aprire una nuova pista per le indagini. Fa il giro del mondo la foto del subcomandante Marcos, finalmente senza passamontagna, in realtà quello ritratto è Leuccio, un ragazzo pugliese. Sky TG24. Partenza di Pasqua tra rincari e maltempo, traffico intenso. Valanghe sulle Alpi, tre morti in Trentino Alto Adige. A San Pietro i riti del Venerdì Santo, questa sera la Via Crucis al Colosseo. Cota e la pillola abortiva, non andrò contro la legge, dice il neogovernatore. Preti pedofili, PM di Milano, Forno accusa la Chiesa, Alfano invia gli ispettori. Rapporto deficit PIL al 5,2% nel 2009 è il peggior dato dal 96. Non si ferma all'Alt, magrebino ucciso da un carabiniere nel modenese. A Roma stroncato dalla polizia un giro di prostitute russe ad alto livello. Mosca ha identificata una delle kamikaze della metro, è una vedova 17enne. Calciopoli, bufera Inter, dalle intercettazioni una telefonata Moratti-Bergamo. Servi della gleba, testa alta. Esalta. Niente marijuana né pasticche, noi si assume solo il due di picche, servi della gleba in una stanza, anestetizzati da una stronza. Sarà ospite dopo le 19.30 Massimo Fini, giornalista, scrittore, il quale con un articolo sul Fatto Quotidiano del 27 marzo ha lanciato una discussione che va avanti da tempo, in realtà immemorabile, sui rapporti tra uomo e donna. Il titolo di quell'articolo era Donne, guaio senza soluzione, le donne sono una razza nemica, bisognerebbe capirlo subito. Invece ci si mette una vita quando non serve più, mascherate da sesso debole sono quello forte, eccetera, eccetera. Questa mattina da Alessandro Milan. A parità di condizioni, lei si fa su lui come vuole, perché il maschio è un soggetto elementare, mentre la donna è infinitamente più complessa. Mi ha raccontato delle cose sulle sue ferie di ancora lui. Mi piacerebbe che riacquistassero, poi naturalmente qui si sta generalizzando come sempre in tutte le cose, no? Ma un pochino più di quella dolcezza che un tempo avevano, che adesso pare abbiano perduto. Sono invitato a casa sua per vedere le diapositive del mare delle sue ferie. E poi le quote rosa. Le quote rosa io lo vedo come un insulto alle donne, come se fossero una specie da proteggere, tipo panda. Penso che in politica, come in ogni altra cosa, ci debbano andare soggetti meritevoli, uomini, donne o altri sessi che siano. Sono tornate le trasmissioni politiche in televisione, i talk show che si occupano di politica, in particolare la trasmissione di Monica Setta, molto seguita su Rai 2. Durante questa trasmissione spesso si parla di politica, ma soprattutto di personaggi, di vita personale dei personaggi della politica. Ogni tanto sono ospiti anche delle persone che non hanno proprio a che fare con la politica. Comunque escono fuori ogni tanto dei siparietti gustosi, diciamo così. E allora sentitevi questo: Marina Ripa di Meana, che qualcosa con la politica ha avuto a che fare nel passato, e Matteo Colaninno addirittura. Per una manciata di voti poteva diventare la grande vittoria di Bersani. Scusa, ma Maria Ripa di Meana, e poi andiamo a sentire Silvio Berlusconi. Perdere e dire non è andato tanto male, è andato anche bene. Avete perso, Bersani l'ha detto. Hanno perso, anzi io non sono nella politica, ma scusi, perché ma sono avulso. Nessuno sta dicendo che abbiamo vinto. Ho detto Bersani, che abbiamo vinto. Santoro ieri si è chiesto quel punto interrogativo. Non è andato tanto Bersani male perché... non ha detto. Senta, questo. Allora lei non è informato, non ha sentito le parole. No, lei racconta delle palle. Lei racconta balle. Andiamo a sentire Silvio Berlusconi. Lei racconta balle. Matteo Colaninno contro Marina Ripa di Meana. Lei racconta balle. Bacia mano. Colaninno, le sue idee, la prego, mi fa un bacio a mano alla signora Marina Ripa? No, Matteo, dopo, ti prego, dopo. No, basta. Alzati, e la finiamo qua. Allora, dai, mi baciano. Un bacio a mano a Marina Ripa. Baciamo Eccolo, mano. Perfetto, benissimo. Però la lite continua anche dopo questo bacio a mano un po' forzato. In questi anni non c'è stato un clima equilibrato, a mio avviso, per responsabilità del capo del governo. Ma perché non c'è stato il clima equilibrato? Senta, io la rispetto perché lei è anche una signora, ma lei la deve smettere di essere una maleducata. Perché veramente non va bene. Lei è stata una grande maleducata. Deve andare a parlare con Colaninno. Cioè, lei mi deve lasciare parlare. Allora, andiamo subito a dire queste cose. Porta a porta, la Polverini contro il sindaco di Verona, Tosi. La Regione Lazio, io dubito fortissimamente che riuscirà a rientrare dal debito sanitario non riducendo i posti letto. Ce lo diremo più avanti, perché c'è un parametro nazionale. Che è quello di 4 posti letto ogni 1000 abitanti, per posti letto per acuti. È molto più che vale complessa la regioni, sanità nel vale, Lazio, guarda, vale, credimi, è molto guardi, più non è complessa. Di, guarda, non è un problema di solo di posti letto, la sanità, è molto più complessa. La sanità si basa, qui paghiamo anche la formazione dei medici che poi vengono a lavorare in Veneto, tanto per dirne una. Allora, se voi avete 108.000 posti letto in più, Tosi. Ma tu allora, non ti preoccupare, tu fai il sindaco, io faccio il governatore. Aspettiamoci un canotto e prendiamo il largo verso il mare blu. L'uomo del canotto, secondo Travaglio, l'uomo del canotto viene retto. Viene tenuto su dai suoi fan perché è uno che, insomma, in cui la gente crede, al contrario dei politici. L'uomo del canotto qualche giorno fa in una piazza italiana. Noi abbiamo la strategia del putaniere che stiamo esportando. Cambiando, le chiamiamo escort, bastiamo il valore delle parole, perché se cambiamo il significato delle parole non ci capiamo più. Escort, niente, sono delle puttane italiane. E la gnocca, è chiaro che se fai trombare Bondi, una gnocca con due tette così te lo porti fino alla tomba. È gente frustrata, non ha mai scopato in vita sua, mollano le famiglie, le prime due tette gonfie che vedono, parlano, ma mollano famiglia, sono dei disperati, lavorano 23 ore al giorno, perché le mogli e le famiglie li mandano fuori di casa. Ma chi si vorrebbe cambiare con questa gente qua? Chi? Ti cambieresti con Gasparri, ma che cazzo di... Bene, dove andiamo? A sentire la querelle tra De Magistris e Grillo. Oggi De Magistris ha un giorno da pecora su Radio 2. De Magistris dice, replica una delle accuse che gli viene fatta da Grillo. Grillo dice, sei troppo in televisione, ci aspettavamo altro e comunque non vogliamo fare un partito insieme insieme all'Italia dei Valori. Sentite la risposta di De Magistris sulla sua eccessiva presenza in televisione. Io sono il più presente al Parlamento europeo e questo mi ha colpito un po' per esempio di Grillo, perché lui che utilizza molto internet, bastava che andasse a cliccare un pochino su internet e si rendeva conto di quanto grande sia il mio impegno. E voi ricorderete che ho rinunciato alla candidatura che mi avevano offerto a Presidente della Regione Campania proprio perché ho detto che io volevo onorare l'impegno in Europa. Questo non significa che sto in esilio in Europa. È assurdo pensare che un parlamentare italiano come me, che è molto radicato in Italia e che ama l'Italia, vada in esilio. Ma perciò dite un po' curiosa di Grillo intelligente. Ma chi è? Grillo mi manca di rispetto, si scannano tra anti-berlusconiani. Io credo che in politica la cosa importante sia il rispetto reciproco. Io ho sempre portato rispetto in quelle affermazioni di Grillo, ma sono tipiche del suo genere. C'è un po' meno rispetto, ma forse Grillo è stato tratto un po' in inganno da qualcuno. Questa è un po' la mia impressione. Da chi? Non lo so. È troppo intelligente, non posso credere che lui pensi che in politica possiamo cambiare andando da soli. Il tema è questo. Beh, Veltroni lo pensava. Sappiamo tutti che di fronte a uno scenario di deriva autoritaria o ci mettiamo insieme a difendere la Costituzione nell'ambito delle differenze e anche delle rispettive autonomie, perché una cosa è il Movimento a 5 Stelle, una cosa è Italia dei Valori, una cosa e va bene, insomma, non si capisce più niente. Grillo contro De Magistris, De Magistris contro Grillo, chiude la Mussolini. Devo dire, io mi auguro che la sinistra, perché è un problema anche per la maggioranza se non c'è dall'altra parte un'opposizione credibile, o meglio un'opposizione che si affida ai vari Santoro, ai vari Grillo nel canotto, che ci rimanesse nel canotto quest'estate. Da parte mia ci ho messo tutte quei miei. Quanti voti, quanti voti ha portato lei alla Polverina? 150.000 gli è stati. L'Italia dei confini, sono i fatti italiani, gli arrivati Mussolini. La Bonino sia stata votata meno di quanto da aspettarsi, cioè l'ha votata Roma Radical Chic. La dittatura è un fatto di uomini grandi, disse Almirante, ma purtroppo gli uomini grandi sono morti. Fini è ancora un uomo grande, oppure dopo queste elezioni è un islamico sionista. Giuseppe Ciarrapico, ieri sera alla Zanzara, 800 24 00 24. Andiamo direi a Lecco allora. Antonio, eravamo in collegamento da prima, prego, completi Antonio. Allora guardi, io onestamente rimango sconsolato, mi è bastato sentire un po' di trasmissione, onestamente del quadro che dei personaggi che si vedono in televisione, che parlano, poi uno fa a ritroso un po' di storie. E veramente, io guardo mia figlia, c'ha 3 anni, e dico, ma che mondo trova? Ho sentito prima Colaninno e ho cominciato a pensare, ma questo era quello del governo ombra che si opponeva all'acquisizione, dove a capo della società che acquisiva l'Italia c'era il padre. E mi dico io, ma che cavolo di paese è questo? Poi veramente si finisce a parlare come Grillo. Però mi scusi, io su guardi, questa cosa devo difendere Colaninno. È il quadro della situazione, capisci? Ho capito, ma Colaninno perché dovrebbe rispondere di quello che fa il padre? Abbia pazienza. Ho capito, che vuol dire? Ma stiamo scherzando? Che il padre non può fare l'imprenditore e lui non può fare il politico? Ma che stiamo scherzando? Che vuol dire che uno acquisisce un'azienda come l'Italia in quell'operazione? E il figlio fa il deputato del Partito Democratico, allora? Come allora? Ma stiamo scherzando? E allora cosa dovrebbe fare? Non ho capito, Antonio, mi spieghi? No, io lo spiego. Me lo spieghi concretamente cosa significa. Tranquillità, io appunto me lo spieghi, sì. Allora, in famiglia si sta acquisendo, in famiglia allora Presidente del Consiglio è Berlusconi, sì. Pier Silvio è il figlio Presidente, sì, di Mediaset, vuol dire che Antonio, allora papà lasci perdere le supposizioni, papà Colaninno sta acquistando l'Italia, allora? Parte all'opposizione dovrebbe fare opposizione a un'operazione del genere. Ma lei dovrebbe fare opposizione. Capito, ma lei la ritiene credibile una cosa del genere? Ma riderebbero, chiunque riderebbe. Antonio, ma comunque non era questo qui il punto, il punto era un altro. E qual era il punto? Cioè, il punto è, io volevo farle questa domanda da Vabbè, lasci perdere, voleva farmi una domanda. Sì. Sì, volevo fare una domanda. Sì, sì. Se lei non mi incalza, io rispondo. Ma io non sto incalzando nessuno. Ma... No, ma lei ha questo modo, guardi. Guardi, Antonio, io lascio parlare tutti, non dica sciocchezze. Va bene, no, è il modo. Ognuno ha i suoi modi, se le piace questo modo, bene, altrimenti se non le piace non chiama. Guardi, di solito gli arbitri non fischiano il rigore a centrocampo. Io non sono, non faccio l'arbitro, io non faccio l'arbitro. Io non faccio l'arbitro, non faccio l'arbitro, Antonio, non faccio l'arbitro. Io volevo farle una domanda, che è questa. Secondo lei, e la cosa è passata, diciamo, non una stellata, però non ha preso il peso che doveva prendere. Quando un Presidente del Consiglio, osannato come osannato dalla sua parte, dice davanti a una platea, noi in 3 anni vogliamo curare e sconfiggere il cancro. Ancora questa storia del cancro, Antonio? Ancora questa storia. Ma l'abbiamo cancro, criticata in lungo e largo qui alla Zanzara, ma lei ascolta o non ascolta? No, ascolti lei. No, lei ascolta questa trasmissione o non ascolta? Perché se non l'ascolta è inutile, cioè di che stiamo parlando? No, ma cioè stiamo parlando di una cosa della campagna elettorale. Ascolti. Antonio, doveva fare una domanda, lei mi è tornato fuori con questa storia del cancro di Berlusconi. Ma questa storia del cancro, io sto Ma siamo andati avanti per una settimana con questa storia del cancro di Berlusconi, per una settimana. Luciani, mi ascolti. E il panorama informativo italiano è quel che È quello, perché se no dopo una cosa del genere dopo che quando Di Bella, che era un medico, che adesso diceva Di Bella, io ha tirato fuori Di Bella. Di Bella, ma stiamo scherzando, quando disse ho qualche dato che dice che una percentuale possa guarire, l'avete massacrato. Antonio, abbia pazienza, lei è partito. Antonio, scusi un attimo, adesso cerchiamo di riportare questa discussione a un minimo di ragionevolezza. Però, abbia pazienza. No, Antonio, ma lei non mi può andare a Di Bella, abbia pazienza, se no non capisco io, scusi. Cerchiamo di riportare la discussione a un minimo di ragionevolezza, un minimo sto dicendo, minimo. Allora, lei è partito da anno zero e altre cose. Poi è andato a Berlusconi il cancro, adesso Di Bella. Di che vogliamo parlare, Antonio? Allora, io lo spiego. Di cosa vogliamo parlare? Allora, io le sto dicendo, volevo un parere. Sì, un parere su che cosa? Che me lo dica a me, secondo lei. È partito dal cancro. Dopo che io le esamino quello che ho capito. Un Presidente del Consiglio, nel momento in cui va da Tremonti e gli dice, questa volta che gli posso sparare? Tremonti gli dice, non gli posso sparare niente, non ci sono soldi. Questo adesso non è più il cancro, è Tremonti. Questo Presidente ha fatto la sua Ma la domanda qual è? La domanda... Secondo lei non è scandaloso che si faccia una cosa del genere e si vada ma a Ma quale? Scandaloso? Che cos'è scandaloso? Che cosa sarebbe scandaloso? Non l'ho capito. Scandaloso che, cosa... che un Presidente del Consiglio miri e faccia leva sulle disgrazie delle famiglie che hanno un malato di cancro. È tornato al cancro, non sui Tremonti. Ho capito, il cancro. Cosa... Sì, l'abbiamo criticato perché non era il caso di parlare in quel modo. Sì, è scandaloso. Ognuno si può... Vuole il termometro dell'indignazione, non lo so a che livello è il mio termometro dell'indignazione, di solito è molto basso. Antonio, la ringrazio. Enrico da Udine. Buonasera a tutti. Dica. Io non avevo sentito alla televisione l'affermazione del cosiddetto Grillo, ma ho sentito la vostra replica e sono veramente sconvolto. Premetto che io sono orgoglioso di essere italiano, lavoro spesso con l'estero, dove si sentono anche i telegiornali italiani. E veramente penso che ci siamo veramente fatti ridere da tutta l'Europa. Ma con che cosa ci siamo fatti ridere? Con l'affermazione del signor Grillo. Che lei guardi, non credo che si interessino in Europa di quello che dice Grillo. No, guardi che... Si interessano poco anche di quello che dice Berlusconi, figuriamoci di Grillo. Ma non è proprio così, perché guardi, per vendere prodotto italiano, soprattutto della media piccola azienda, dove il marchio non è noto. No, adesso guardi, Enrico, adesso francamente, mettere in relazione la diffusione dei prodotti italiani in Europa e nel mondo con quello che dice Grillo, mi sembra. No, io dico l'immagine dell'Italia. Ma non c'entra assolutamente nulla. Non... Ah, c'entra, guardi che c'entra, va bene, c'entra. D'accordo, mi dimostri che c'entra. C'entra, guardi, e più di qualche volta mi è capitato, e non solo a me, penso a molte persone che lavorano. No, io non compro italiano perché c'è Grillo. No, non voglio dire questo, non ho affermato questo. Io dico che le persone all'estero, nei paesi esteri, mercati evoluti, Germania, Svizzera, Francia, in altri posti, già fanno fatica a dare credibilità al prodotto italiano, soprattutto quando è di un'azienda medio-piccola e non di un marchio affermato, per la scarsa credibilità che ha l'italiano all'estero. Purtroppo, merito anche dei nostri colleghi e dei nostri patrioti che quando vanno all'estero, anziché parlare bene o stare zitti, parlano male dell'Italia. Questo a me personalmente dà molto fastidio. E poi? Io ho speso una giornata per parlare bene dei prodotti italiani, dell'organizzazione, dell'assistenza, eccetera. Sento Grillo che fa queste affermazioni e dico, mi vergognerei se un mio cliente o comunque al di là degli affari una persona straniera avesse udito il telegiornale, perché senz'altro ci saremmo capito. Veramente magari si sarebbero fatti due risate e basta. Ringrazio Enrico. Come bisogna farsi due risate? Bisogna riportare un po' forse il fenomeno grillo alla sua dimensione naturale, che è quella della comicità. Riccardo, provincia di Torino. Buonasera a tutti. Niente, io volevo solo dire, ho sentito prima un ascoltatore che diceva che Grillo ha preso i voti dalla sinistra. Io porto la mia personale esperienza, io ho sempre votato destra, ho votato Lega, ho votato Berlusconi, mi sono vergognato ultimamente di andare in giro perché io non ho problemi a dire cosa ho votato, a dover dire che Berlusconi praticamente è andato su anche grazie a un mio voto, non solo il mio voto. Lei si è vergognato, si è vergognato. Onestamente sì. Ma per carità, la vergogna è un qualcosa che si può provare. Sì, mi vergogno io, non dico niente di Berlusconi, dico che mi sono vergognato io di averlo votato. Perché comunque il decreto per riammettere la lista. Io sono laureato in giurisprudenza. Cavolo, ci sono dei parlamentari, non sanno che era anticostituzionale per tre motivi. Ho capito, Riccardo. Dunque, lei si è vergognato e dunque? No, e dunque ho votato Grillo, ma io non provengo dalla sinistra. Ah, lei per rispondere a quell'ascoltatore che diceva i voti di Grillo sono i voti della sinistra, ho capito. Esattamente. Ma infatti, anche secondo me in Piemonte in particolare sono voti che non possono essere sommati a quelli dell'Abruzzo. È un'operazione abbastanza assurda quella che viene fatta. Abbiamo perso, qualcuno ha detto, per quel 4% di grillini che hanno consentito la vittoria di Cota. Ma è un ragionamento che secondo me non sta né in cielo né in terra. La ringrazio, Riccardo. Massimo Fini, buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Mi ha messo nei guai ieri, mi hanno chiamato nei guai da un certo punto di vista, no, però ma comunque anche a me mi hanno, siete molto ascoltanti perché avevo ricevuto almeno 20 telefonate sul fatto che ieri ho letto che lei ha letto sì, ho letto quasi integralmente il suo pezzo. Esatto. Da una parte devo dire mi aspettavo una reazione da parte degli ascoltatori uomini, ma soprattutto donne, devo dire la verità. E dunque questa sera la volevo così ospite per un po' per capire da dove nasce questo articolo che ha come titolo Donne guaio senza soluzione, le donne sono una razza nemica, bisognerebbe capirlo subito, eccetera eccetera. Insomma, da dove nasce questa cosa? Molti ascoltatori mi hanno detto sarà rimasto deluso. Poi Fini è uno che ha scritto nel passato addirittura un libro sull'universo femminile, sul sesso, adesso non ricordo bene. Sì, no, in realtà nasce da un libro che io ho scritto nel 2000, credo, se non addirittura prima. Se non lo sa lei, Fini, non le posso dare una mano su questo. Nel 2000. Che si chiama, intitolava Dizionario erotico manuale contro la donna a favore della femmina. E questo è un derivato di quel libro. Dove peraltro... E perché lei l'ha riproposto questo articolo 10 anni dopo? L'ho riproposto perché il lettore del Fatto, per il quale io lavoro, sicuramente non aveva, insomma, è un lettore nuovo per certo, me. Certo, ma insomma dove nasce? C'è stato qualche spunto che l'ha portato? Sì, lo spunto nasce per la verità da un fatto drammatico successo a Genova. Un professore di un istituto tecnico, eccetera, è stato accusato da una allieva che mentre facevano delle esercitazioni, eccetera, sì, lui gli avrebbe messo le mani sulla coscia. Sì. Il professore, che aveva una fama assolutamente irreprensibile, dopo due giorni si è buttato giù dal nono piano. E questo mi ha dato un po' lo spunto perché oggi, non so se naturalmente la cosa è vera o non è vera, nessuno lo può sapere, solo la ragazza che ha 10 anni può saperlo, ma veramente così come si sono messe le cose, una ti può rovinare la reputazione come niente, insomma. Ogni tanto sono vere le cose però. No, per carità, certo che ogni tanto sono vere. Forse prima di fare una denuncia e di cosare, magari voglio dire, potevano esserci anche, non so, altri, vedere se, ammesso che sia vero, se la cosa si ripeteva, eccetera, eccetera. Mentre... Senta, però, quando uno scrive un articolo in cui naturalmente si dà un giudizio generale sulle donne, che è quello di guaio senza soluzione, leggo ancora qualche passaggio. Attrezzate per partorire, sono molto più robuste dell'uomo e vivono 7 anni di più, anche se vanno in pensione prima. Hanno la lingua biforcuta, l'uomo è diretto, la donna trasversale, l'uomo è lineare. La donna serpentina, per l'uomo la linea più breve per congiungere due punti è la retta, per la donna l'arabesco. Lei è insondabile, sfuggente, imprevedibile. Al suo confronto il maschio è un bambino elementare che a parità di condizioni lei si fa come lei si fa su come vuole. Sì. E se nonostante tutto si trova in difficoltà, allora ci sono le lacrime, eterno impareggiabile strumento di seduzione, di inganno e di ricatto femminile. Al primo singhiozzo bisognerebbe estrarre la pistola, invece ci si arrende senza condizioni. Beh, insomma, è un ritratto un po' impietoso di un rapporto tra uomo e donna. Ma no. Il rapporto forse sì, perché il rapporto è molto degenerato negli ultimi anni, perché la donna si è appiattita sul maschile, perché il come si può dire, ha perso tutta una serie di, parliamo sempre in generale naturalmente. Beh, lei in generale scrive, però generalizzazioni va da sé, ma voglio dire, ha perso molto della sua femminilità, tra l'altro ha perso il suo fiore più falso e più bello, che era il pudore. E sul sesso invece? Nel pezzo di domani io dico: rivestitevi sciocchine, perché in realtà le vostre nonne, facendo intravedere la caviglia, erano molto più seducenti. Ma lei però dice, se lo si guarda bene il pezzo, sì, se si guarda bene il pezzo è un'esaltazione della vitalità della donna. Beh, insomma. Sì. Lei dice: sul sesso hanno fondato il loro potere mettendoci dalla parte della domanda, anche se la cosa a ben vedere interessa e piace molto più a lei che a lui. Il suo godimento, quando le cose funzionano, è totale, il nostro solo settoriale, al limite mentale. Poi lei cita Sartre, ma la donna è baccante, orgiastica, dionisiaca, caotica. Per lei nessuna regola, nessun principio può volere più di un istinto vitale. E questo cosa è? Vitalità? No, questa è vitalità. E quindi totalmente inaffidabile, però, nello stesso tempo. Per forza, perché insomma la donna è la vita, l'uomo è la legge, la regola, il rigore, la morte. Questa è la sostanza delle cose. Scrive, non mi pare un insulto alle donne. No, non lo sto dicendo che è un insulto alle donne. Per questo, per secoli o millenni, l'uomo ha cercato di reggimentarla, circoscriverla, limitarla, perché nessuna società regolata può basarsi sul caso femminile. Ma adesso è caos, in realtà. Essendo la donna caos. Sì. Adesso che governa ed è in posti importanti, o comunque si è emancipata, dice lei, la società è un po' più caotica, questo vuole dire? No, perché la verità no, perché se parliamo per esempio a livello, voglio dire, la donna non ha portato nel mondo politico, sì, non ha portato la sua femminilità, si è semplicemente appiattita sul maschile. Ah, ho capito. Facciamo un esempio che riguarda internazionale, più o meno. La donna è sempre stata contro la guerra, perché essendo colei che dà la vita, sì, questi macelli non le sono mai piaciuti, la guerra è sempre stato un gioco maschile. Adesso le più assatanate guerrafondaie degli ultimi decenni sono state l'Albright, Emma Bonino e quella pseudo nera e pseudo donna di Condoleezza Rice. Condoleezza Rice. Sì. Beh, c'è stata anche la Thatcher, che non era una cosa la Thatcher, poco. La Thatcher ha fatto una guerra molto diversa, ha fatto una guerra ideologica. Beh, la Emma Bonino poi lei me la fa passare come una guerra fondaia. E come no? E stava lì che saltellare tutto il tempo. Ma come? Perché... radicali, Gandhi. Gandhi, un cavolo. Saltellare tutto il tempo quando era commissario europeo per attaccare i serbi, eccetera, gli stupri etnici. Ma che stupri etnici? C'erano degli stupri, è una cosa già grave, ma non erano assolutamente etnici. Beh, però poi sull'Iraq loro dicono che volevano evitare la guerra. Beh, insomma, comunque lei dice che le più grandi guerrafondaie erano donne. C'è un altro aspetto di questo articolo che è interessante. Stanno lì a chiagne ogni momento sulla loro condizione di inferiorità e sono piene zeppe di privilegi. Lei è davvero convinto che sono piene zeppe di privilegi? Nel diritto di famiglia assolutamente, nel senso che nel 95% dei casi i figli vengono e la casa... Questo può anche non essere un privilegio, però, perché magari... Non lo so come lei considera i figli, secondo me i figli sono il più grande evento della vita. Anche secondo me. Ecco, tutto il resto sono cose anche divertenti, quindi sa, l'uomo è i figli restano a lei. Sì. Se lei si mette, come alle volte si mette, non tutte, per carità, ma si mette di traverso, tu non li vedi più. Poi questa cosa della provocazione col bikini, col tanga, i mini, eccetera? Ma guardi... Lei dice, se in ufficio lei fa un'innocente carezza sui capelli è già molestia sessuale. Questa naturalmente è una provocazione, no? Però è vero che... devi stare attento, cioè c'è un banchiere americano, ha detto io non salgo su un ascensore se c'è una donna sola, perché parola contro parola in 100 piani poi come sono i grattacieli americani, quindi voglio dire... Ma anche lei ha paura di salire una donna in ascensore, no? Ma io non voglio vederle, cioè devono stare a 5 metri di distanza. Addirittura? Sì, almeno 5, sì. Ma lei è diventato... Da quant'è che ha preso questo come si chiama, l'odio nei confronti delle donne? Uomini che odiano le donne, era un titolo di un libro di Stieg Larsson, ma insomma, non è odio, però c'è un po'... Adesso, odio no? No, in realtà, va bene, è chiaro, sono estremizzazioni. Però il è diventato tutto così, appunto, causidico, ripeto, se tu fai... Vabbè, insomma, veramente... lei da quando è diventato così misogino? Io sono sempre stato misogino. Sempre. Il che non mi ha impedito, naturalmente, di avere un certo numero di fidanzate, di avere anche dei bellissimi rapporti. E adesso come è messo, per esempio? Ma adesso... ci siamo lasciati con una fidanzata con cui sono stati 10 anni, ma non è che c'entri questa storia. Ripeto, sicuro? Sicuro non c'entra? Il libro risale a 10 anni fa. No, però il pezzo magari risale dalla rottura con la sua fidanzata. Ma no, no, no. Ma adesso scherziamo. No. Valentina dall'Aquila, sentiamo, ha da dirle qualcosa. Valentina. Buonasera, guardi, io sentendo questo intervento ho confermato ancora di più la mia opinione, ossia che il signor Fini non è misogino, ma se mi consentite, misofobico. È questo. Come, scusi, come, scusi? Problema. Misofobico. Ah, misofobico. È un neologismo che ho deciso questa sera di creare proprio pensando a lui, coniato a sua immagine e somiglianza. Lo vede, Fini? Addirittura c'è qualcuno che intorno a questo articolo ha creato delle, no, dei nuovi termini. Dei nuovi termini. No. Le spiego, perché la mia sensazione è che in quell'articolo non ci sia un odio nei confronti della donna, ma una necessità di creare delle distanze tra l'essere uomo e l'essere donna, dire se la donna è in carriera comunque lo è o perché ha ceduto a qualche compromesso o perché comunque è brutta, allora è intelligente ma non sarà mai realizzata nella vita. L'idea per un uomo di mettersi alla pari, di dire è una donna, fa parte del genere umano esattamente come me che sono un uomo, spaventa, perché appunto la donna non ha un ragionamento che segue una linea retta, ma ha un ragionamento che si segue una forma, mi sembra, arabesca. Lei non ci crede a questa cosa qua, lei non crede a queste differenze. Ma non ci credo nel modo più assoluto. Guardi, tra l'altro io sono molto preoccupata perché in questo periodo credo che in Italia ci sia grande difficoltà per le donne di essere rispettate. È di cosa è preoccupata, scusi? Credo che ci sia molto poco rispetto della dignità della donna. Lei crede? Dove lo sente questo poco rispetto? No, io lo faccio pensare per questo motivo. Io lavoro in un ambiente prettamente maschile, quindi spesso sono comunque costretta a defemminilizzarmi per evitare che qualcuno possa credere che le mie promozioni... A cosa è costretta a fare? Defemminilizzarsi? Sì, sto creando una serie di neologismi per essere più chiara possibile. Mi perdoni questo... No, prego, prego, non si preoccupi. Allora guardi, le racconto un piccolissimo episodio. Ieri sera sono uscita dopo 10 ore da lavoro, un po' in anticipo, le dirò anche, e stavo passeggiando su via del Babbuino, una via centralissima di Roma che tutti conoscerete. Avevo un tailleur nero, una grande sciarpa, le assicuro che ogni mia forma possibile ed immaginabile era coperta. E sono stata avvicinata da un uomo di mezza età molto elegante, con dei mocassini particolarmente evidenti e con delle buste di negozi eleganti nelle mani. Quest'uomo mi ha avvicinato, io credevo mi stesse avvicinando per chiedermi delle informazioni su una strada, su un monumento, non so. Invece quest'uomo, avvicinandosi, ha tirato fuori dalla sua tasca numerose banconote da 100 euro. Ora io, capisce, mi sono raggelata lì per lì. E di cosa? Non ho capito perché... Quindi si è avvicinato... perché ho guardato questi... No, ma la cosa dovrebbe essere significativa È significativa, signor Cruciani, mi scusi, del fatto che la donna molto spesso dagli uomini è vista semplicemente... Ho capito. Come si risponde a questa... Un attimo solo, Valentino, ho capito benissimo il concetto. Qui bisogna anche sintetizzare però. Come si risponde? Io non ho mai capito il rapporto con le prostitute, il rapporto mercenario, diciamo. Sì. Mi pare una cosa totalmente insensata. Dice, ma come? Io faccio la fatica di scoparti, ti devo anche pagare, ma siamo diventati matti. Ecco. Vabbè, però voglio dire, la signora Valentina che ci ha chiamato dice: beh, insomma, in questo periodo le donne sono considerate un po' così, insomma, la stregua sempre di prostituta. A me è successo quello che è successo. Nel mio pezzo non c'è nulla di questo. Nel mio pezzo c'è scritto semplicemente che sono una razza nemica, ma non c'è scritto assolutamente, e non lo penso, è cosa che sono inferiore a chi che sia. No, certo. Valentina? Io mi domando solamente una cosa, concedere il proprio corpo per ottenere quelle carrierucce da segretaria, mi sembra che Valentina, dica. Ma non l'ha scritto. Non l'ha scritto, Valentina. Ma bisogna sapere... Oh, porco cane! Bisogna saper leggere, signorina. Non l'ha scritto, Valentina, non c'è scritto nulla di tutto ciò. Se lei legge o non capisce quello che legge, sia essa uomo o donna. Ma non c'è scritto. Allora, se lo vado a leggere... Io l'ho letto molte volte. Ma non c'è nulla che riguardi la prostituzione o la vendita del corpo o cose di questo tipo. No. Ma non c'è nulla che riguardi direttamente la prostituzione o la vendita del corpo, ma in quell'articolo si fa passare il principio per cui una donna con la lacrimuccia compra questo povero uomo succube. Prima lei ha passato una... Sì, ma questo... Ma in questo caso si parla di rapporti tra uomo e donna, non è che si parla di vendita del proprio corpo. Ci stiamo un po' incartando, Valentina. Un attimo, ci sono i tempi che devo rispettare, Valentina. Siamo qui alle 20 in punto, sentiamo il TG5. La Via Crucis, guidata da Benedetto XVI, chiuderà i riti del Venerdì Santo al Colosseo. Il mondo ricorda Papa Giovanni Paolo II nel quinto anniversario della morte. Valanghe, muoiono 3 escursionisti, rischio alto su tutto l'arco alpino dopo la neve fresca caduta ieri. Esodo pasquale, traffico intenso in uscita dalle città, ma al centro e al nord rischio pioggia fino a lunedì. Serial killer americano confessa 30 delitti ma potrebbe aver ucciso oltre 100 ragazze. Fotografava le vittime, poi le finiva. L'ergastolano Marino Occhipinti, tra i killer della Uno Bianca, esce dal carcere per partecipare a una Via Crucis, la rabbia dei familiari delle vittime. Nelle Marche, una strada inaugurata 20 anni fa ma non è mai stata completata, spesi inutilmente 600 miliardi delle vecchie lire. Prima di tornare con la domanda finale a Massimo Fini, sentiamo anche il TG1. Valanghe, 3 morti sulle Alpi, 2 escursionisti travolti a Merano, un'altra vittima in Val di Fiemme, livello di rischio alto. Cominciano le vacanze di Pasqua, 9 milioni di italiani in viaggio, tempo incerto e pieno più caro. 5 anni fa moriva Giovanni Paolo II al Colosseo La Via Crucis con Papa Benedetto XVI, diretta su Rai 1. Pillola abortiva, si attenuano le polemiche, i governatori, nessun contrasto, Casini al TG1, la Lega se vuole faccia cambiare la legge. Spacciatore tenta di investire un carabiniere durante un'operazione antidroga vicino a Modena, il militare spara e lo uccide. Non voglio far polemica con la Presidente Polverini, la Regione Lazio, io dubito fortissimamente che riuscirà a rientrare dal debito sanitario non riducendo i posti letto. Questa è la polemica Polverini-Tosi ieri sera a Porta a Porto, ogni tanto litigano anche tra di loro nel centrodestra. Allora, Fini, però qui c'è una questione che resta aperta, sì, che è quella della conclusione del suo articolo. Tanto domani ci ha detto che ce ne sarà un altro, no? Sì. La conclusione del suo articolo è questa: non vorrei andare sul porno spinto, però insomma le cose scritte sono cose scritte. Basta. Lei legga. E allora, meglio soddisfarsi da sole, no, meglio riprenderlo da prima però. Non fanno che provocare, sculando in bikini, in tanga, in mini, ma se in ufficio le fai un'innocente carezza sui capelli è già molestia sessuale. Se dopo che ti ha dato il suo cellulare la chiami due volte è già stalking. Se in strada, vedendola passare con aria imperiale, le fai un fischio, cosa di cui dovrebbero essere solo contente e che rimpiangeranno quando non accadrà più, siamo già al limite dello stupro. Basta, meglio soddisfarsi da soli dietro una siepe, sì, che è un po' esagerato però, no? Ma insomma il pezzo è un pochino tutto, voglio dire, provocatorio, vabbè, altrimenti non sarebbe un pezzo. Ma poi è ironico, autoironico. Guardi, io ho conosciuto molte nella mia vita molte donne intelligenti. Cioè lei non ha problemi di quel tipo, cioè, non è che lei si è ormai ha abbandonato il sesso ed è meglio la siepe, no, non voleva dire questo. No, dunque guardi, nella mia vita ho conosciuto molte donne intelligenti, ironiche e anche autoironiche, ma nessuna che non fosse permalosa. Mm. Anche per... questa è un po' una generalizzazione però. Lei mi è ovvio. No, che, vabbè, ma stiamo parlando delle donne che lei ha conosciuto. No, fare... certo, dovremmo fare una statistica. Le donne... ogni caso singolo. Certo, le donne che lei ha conosciuto, certo. Ho detto che le donne, ho conosciuto molte donne intelligenti, ironiche, anche autoironiche, non ne ho conosciuta una che non fosse permalosa. È un dato. Cioè, d'accordo, donne d'accordo, e uomini d'accordo. Sono pari, ovviamente. Sì. Ma sono diversi, vogliamo negare questa cosa? No, io non la voglio negare per niente. Dunque, la permalosità che c'entra con la siepe però? No, la permalosità è un modo di essere della donna, come ci sono altre caratteristiche che sono tipiche della donna. Le donne che lei ha conosciuto, specificate. Certo, non posso, non saprei dirle delle australiane. No, certo, magari le sarà capitata pure un australiano, non lo so. Comunque, vabbè, il meglio soddisfarsi da soli dietro una siepe è così, una cosa buttata lì per dire... Beh, sa cosa diceva Karl Kraus, che la scopata è il surrogato della sega, è Karl Kraus, quindi io mi appoggio a questo. Si appoggia a Karl Kraus. Ecco, carnifichiamo anche Karl Kraus. Grazie Fili, buona serata. Arrivederci. Allora, Valentina Dall'Aquila, adesso, al di là di questo aspetto un po' pornografico della conclusione della telefonata con Fili, vuole concludere anche lei? Guardi, io volevo solamente dire una cosa. Io l'articolo di Fini l'ho trovato solo ed esclusivamente molto pericoloso, perché in un paese in cui c'è ancora un retaggio culturale per cui alcuni uomini ancora non sono convinti del fatto che una donna che subisce una violenza sessuale non fosse in fondo consenziente. No, però mi scusi, però il pericolo in questo articolo, una è criticabile, ma il pericolo in questo articolo uscito sul Fatto Quotidiano è il 27 di marzo. Io francamente non ce lo vedo, può essere criticabile in tutti i modi, è un articolo forse troppo che affronta la questione. Ma guardi, anche divertente volendo, glielo assicuro, divertente, se fosse stato. Ma non è un pericolo, abbia pazienza. Mi ascolti, se fosse stato un discorso di un mio amico a cena, io avrei riso, lo avrei insultato. Ma è un articolo, ma è un articolo di un giornale, non è che sia un editto, non è un editto. Lo so, però guardi che con la situazione che stiamo vivendo in questo momento. Ma qual è la situazione? Qual è la situazione? È una situazione, mi lasci dire, è una situazione veramente molto pericolosa, molto dubbia, in cui guardi, Rai 3. Qual è la posizione della donna? Ho capito, Rai 3, Blob, sì. Stanno mandando da 10 minuti la puntata di oggi dal titolo Venerdì Gnocca. Dante! No! Quello è il cantico? Delle creature. Delle creature? No. L'ha scritto San Francesco d'Assisi. Proprio su San Francesco vado a cadere. Ammetto la mia ignoranza, non lo sapevo, scusate. Vabbè, infatti adesso lo sai, come lo sappiamo tutti. Va bene. Quando io penso, Francesco da Massa Carrara. Buonasera. Grazie Valentina, arrivederci. Francesco, dica. Buonasera Luciani, sono un collega che interviene da Massa Carrara. E niente, incandescente direi il clima stasera. Nel senso... Ma no, non mi pare, insomma. Insomma, non mi tuffo. Siamo al rapporto e alla... Sì. Vabbè, lasciamo perdere. Non mi tuffo nell'abisso insondabile dei rapporti uomo-donna. Soprattutto l'abisso insondabile dei rapporti uomo-donna di Massimo Fini. Certo, però la polemica mi sembra accesa, mi sembra. comunque, insomma, bypassando questo aspetto, insomma, sì. Di Maior, Minor Cessat, Serafini, sono onoratissimo di questo fatto, di intervenire dopo di lui. Però, diciamo, io volevo riportare invece la vicenda su altre questioni, cioè sul caso Santoro, nel senso che Santoro ha avuto questa, diciamo, nuova possibilità di intervenire con un grande spot, diciamo, alla sua situazione personale. Però volevo scendere nel provinciale, nel senso, io sono un giornalista che scrive su una testata qua mensile, mi occupo di politica e sono notoriamente, insomma, non filo istituzionale. È capitato anche a me di finire fuori dal giornale, nel senso che questo mese non c'è il mio articolo, nonostante che l'editore mi avesse chiesto di sostituirlo, ho avuto la sorpresa di non trovarcelo sul giornale. Quindi, come si vede, i casi Santoro anche nel piccolo, soprattutto in circostanze come queste dove c'è un'amministrazione di sinistra che è sia al governo che all'opposizione della città, lasciano il segno, nel senso che, diciamo, che i metodi non cambiano. Ho capito, però raggiunge... Francesco, per carità, io ho grande rispetto per le idee di chiunque, però non ho strumenti ed elementi per giudicare, per entrare nel merito della sua situazione, dei suoi rapporti con il direttore del giornale in cui lavora. C'è la parte finale di Blob in cui un reporter di Anno Zero è tra i manifestanti del Popolo della Libertà. Vince sull'odio, una merda, provocatore. Ma di cosa? Oh, ma perché? Dai. Di Pietro, più lo prendi, più ti intossica, eliminarlo è un dovere. Ma non era la manifestazione dell'amore questa? Prende per culo il signore. No, però tu, non era la manifestazione dell'amore più forte dell'odio e dell'invidia. Sì, tutti fanno l'amore, c'è pure chi è incazzato per tutto. Con chi? Con i giudici, con Pietro. Anche con Santoro. Voi che non vedi i coglioni in continuazione. Ma penso pure che... Beh, era straordinario. Eccoci qui, 20:12, 800 24 00 24. Andiamo a Parma, Mario. Pronto. Buonasera, dica. Buonasera. Volevo trattare di un argomento a cui, secondo me, anche lei un po' cede come tentazione. E cioè, c'è una tentazione forte da parte di molti di cadere in un semplicismo che può portare dei pericoli. Il semplicismo è quello del berlusconismo anti-berlusconismo. Grazie a Dio la società italiana è molto più complessa. Lei ha perfettamente molto ragione, Mario. Però, diciamo, non è che può essere, non è che può essere ricondotta al berlusconismo, o all'anti-berlusconismo. Come dire, prendiamo un po' in giro la polemica fra grillini e di pietristi o viceversa, oppure col PD. La cosa non è, diciamo, così semplice che bisticciano e la cosa fa ridere perché... Ma noi di quello, cioè, scusi, Mario, mi scusi, noi non è che vogliamo dipingere la società italiana, noi ci occupiamo di queste piccole cose della politica ogni giorno. No, ma io penso che lei abbia molto equilibrio nel trattare l'argomento, però volevo solo sottolineare che c'è questo tentativo che viene anche da Berlusconi stesso. Cioè, quando Berlusconi attacca la magistratura, attacca Di Pietro, attacca il PD, attacca, diciamo, Santoro, attacca tanti altri giornalisti bravi, attacca qualche comico, perché poi di questo si tratta, perché, diciamo, fino a ieri il famoso, quel che è andato sul canotto là, come Grillo. Attacca il povero Grillo, cioè si fa di tutto erbo un fascio per dire sono tutti contro di me, l'invidia, l'odio, eccetera eccetera. In realtà mi ricorda molto chi non è con me è contro di me. Ma queste qua sono questa è propaganda, Mario. Sono d'accordo che è propaganda, però, diciamo, il rischio è la puzza di fascismo. C'è il tentativo di conglomerare tutti per distruggere tutti e metterli a tacere. C'è, perché tanto è vero che la campagna elettorale l'abbiamo dovuta fare senza certe trasmissioni. Mario, guardi, qui non c'è il tentativo di mettere a tacere nessuno. Non mi sembra che la società italiana sia, semmai ci fosse questo tentativo, e non c'è questo tentativo, a tutti i politici in tutti i paesi piace essere omaggiati, non piace la stampa che si fa gli affari loro. Questo succede a tutte le latitudini, naturalmente c'è chi è più sensibile, c'è chi è meno sensibile, però insomma di questo stiamo parlando. Non c'è un politico che è, come dire, no, che non sia un po' allergico alle inchieste dei giornalisti, a quello che scrivono i giornali, per cui mi sembra che la società italiana abbia anticorpi sufficienti. Infatti è questo il problema, è proprio in questi termini. Io le riconosco molto equilibrio e questo è uno, diciamo, degli aspetti su cui lei dice allora molto e credo che sia vero. È vero che l'Italia ha molto anticorpi, ma è anche vero che i tentativi di chiudere una fase veramente democratica che c'è stata... Ma quali sono questi tentativi di chiudere, Mario? Me ne dia uno. Ma la chiusura delle trasmissioni... La ricomparsa di Berlusconi in tutte le salse delle televisioni. Mario, ma quando? Che cos'è neofascismo? Che cos'è, aspetti, mi scusi? Aspetti, che cos'è? Aspetti, no, che cos'è? Non ho capito il termine. Non è solo questo. Il termine che lei ha usato è puzza di fascismo. Puzza di fascismo. Lei l'ha trattato molto bene. Ma il fascismo è una cosa. Il fascismo è una cosa un po' più seria. Siamo qui 20:17. Dove andiamo? Andiamo a Andrea da Forlì. Buonasera Cruciani. Buonasera, dica. Mi sono collegato allora aperitivo. Magari se ci fossimo sentiti in un aperitivo avrei potuto fare un intervento un po' più frugale, un po' più leggero. Ha bevuto un po', no? Le ore uno si incarognisce, si imbelvisce come... Bene, vada pure Andrea, dica quello che vuole. No, guardi Cruciani, io ho un problema, io ho un grosso senso di colpa. Ho un grosso senso di colpa perché, le faccio un attimo il mio profilo, sono un ragazzo di sinistra, però non penso che in Italia ci sia una dittatura. Sono un ragazzo di sinistra, però non me ne frega niente né di Santoro né di Anno Zero, eccetera. Manco lo guarda lei Santoro? Ma lo guardo come posso guardare il Grande Fratello, insomma, non mi stimola nessuna emozione. Diciamo. Senta, ma l'ha vista lei quelle immagini di Santoro? Io non le avevo viste, perché poi in questo periodo sono un po' distratto da altre cose. Però ho visto quelle immagini di Santoro osannato dalla folla prima di entrare al Paladozza o dopo la fine della trasmissione. Io c'ero, Cruciani. Lei è andato, Andrea? Io c'ero. Ecco, sono andato ecco via. Tutto quel momento. Quando ho visto l'intervento di Luttazzi, da sinistra, da uomo di sinistra, sono andato via perché è rimasto, il colorismo è rimasto il colorismo schifato di sinistra è un qualche cosa di molto deprimente per me. Non c'è differenza per sentire, meno male che Silvio c'è o osannare Santoro. Ma cosa si aspettava, Andrea? Era stata... No, non mi aspettavo niente, sono andato come a vedere un concerto, ecco. L'atmosfera era quella, di gente che beveva, si fumava qualche cannone e niente, quando si nominava Berlusconi, un po' così, ecco. Quindi io mi sento non è male come fotografia del Paladozza di Bologna, eh? Andrea, la gente secondo lei è andata come a un grande happening culturale, musicale, eccetera eccetera, con lo stesso spirito. Maggior parte della gente a Bologna, sa, Bologna è una città, io mi sono laureato da poco, è una città studentesca, quindi si va a fare l'aperitivo, quella sera lì c'era Santoro. C'era Santoro come fosse un divo della musica o comunque un cantante tra i più seguiti, e la gente è andata là a osannarlo, a fare la ola, eccetera. Questo era il... Sì. E gli altri che c'erano? Ma io ho visto soltanto gente piuttosto emotiva, che sussultava quando si dice Berlusconi, il picco della serata è stato, secondo me, Cornacchione, che ha fatto ridere, ha fatto la sua... Il suo sketch. Invece a lei Luttazzi non è piaciuto? Non è piaciuto né dal punto di vista del comico, cioè non si trova niente di sublime, come è stato detto, il fatto che il satirico deve toccare questi argomenti sconci. Ho capito. Non si trova niente di nobile nemmeno da sinistra. Ecco. Bene, grazie Andrea, grazie. Prego. Di questa sua telefonata. Alex da Roma, buonasera. Buonasera, Cruciani. Dica. Torno un po' ai argomenti che lei toccato all'inizio trasmissione. Noto che è tornato un po' alle vecchie abitudini lei stasera. E quali sarebbero le vecchie abitudini? Beh, sparare a zero la prima occasione su Grillo, il movimento di Grillo. Insomma. Io non sparo a zero per niente sul movimento di Grillo, guardi, assolutamente no. Tant'è che la sera delle elezioni. Passato lo stesso paragonato alla Lega, che lei tanto. Ho paragonato alla Lega, io il movimento di Grillo. Boh, non lo so, non credo proprio. Ma qual è il punto, spesso, Alex? Io spesso ho avanzato critiche feroci, insomma. A chi? A Grillo, certo che ho avanzato critiche. Al movimento di Grillo, al movimento di Grillo, quando le volte in cui abbiamo avuto ospiti esponenti del movimento di Grillo abbiamo parlato tranquillamente di vari problemi, come è successo recentemente lunedì dopo le elezioni con Boni, il candidato Bono, come si chiama, il candidato in Piemonte che ha preso un sacco di voti, abbiamo parlato tranquillamente. Vede Alex, il problema è che benissimo. E allora qual è il punto? Non ho capito qual è il punto. Io non ho sparato a zero su nessuno, Alex, che dice? Ironie, qui si vive di ironie, anche di battute e di ironie, sì, certo. Se a lei piace, bene, se non piace, pazienza. Ecco, quindi l'ironia quando la fa lei le piace, se la fa Travaglio parlando del canotto non va bene. Ma quello non è, quello è un ragionamento politico, non era ironia, è un ragionamento un po', è un ragionamento politico, lo si può criticare Travaglio ogni tanto o no? È possibile? È consentito oppure no? Certo, poi ci mancherebbe. Per e lei allora, anche, appunto, di che stiamo parlando? Ma volevo il punto dire, no? La mia premessa era, voleva portare a dire questo. L'editoriale di Travaglio, di Sfida dallo Zero, è stato un editoriale molto puntuale, molto acuto, insomma, incentrato sulle polemiche dell'Abresso che diceva la lista di Grillo mi ha portato via i voti, era incentrato sul rapporto un po' conflittuale, no, tra Grillo e il PD che non lo voleva iscrivere, eccetera. Sì. E l'ha ricondotto tutto. Ma io non ho ricondotto niente, ho preso un pezzo, Alex, ho preso un pezzettino, ma non voglio, non posso far ascoltare 3 minuti, non mi interessa. Cioè, no. Ecco, però fa ascoltare solo quello che le dà spunto di essere. Ma io faccio ascoltare quello che mi pare, Alex, è molto semplice. Perché la libertà che lei pensa di avere non la posso avere io? Non ho capito. Ho capito, ma allora infatti, ma allora lo dica, lei è libero di essere fazioso. Ma che c'è, certo che sono libero di essere fazioso. Certo che. No, Alex, io non ridicolizzo nessuno. Io ho criticato. Ma non voglio ridicolizzare nessun editoriale. Ho detto che paragonare. I politici che vanno in piazza o che non vanno in piazza con uno che si fa sorreggere da un canotto non mi sembra proprio un paragone bellissimo, dunque non ho voluto ridicolizzare nessuno, ha capito o non ha capito? Comunque io sì, sono libero di essere fazioso, come ha detto lei, fazioso, poi naturalmente bisogna vedere di cosa e di chi, probabilmente la maggior parte delle volte sono fazioso di me stesso, delle mie idee, insomma, che non sono catalogabili né da una parte né dall'altra, che lei ci creda o meno, Alex, è così. Posso continuare? Prego. Riguarda Grillo, lei ha detto, no? Ha fatto ascoltare le parolacce, no? Quando Grillo diceva le prostitute, invece di escort, chiamiamole con il loro nome, no? Le prostitute che Berlusconi si porta a Palazzo Castiglioni, poi candida in giro per l'Italia e per l'Europa, no? E per riconoscenza, no? Sì, questo lo dice Grillo. E lo dice Grillo, ci sono le intercettazioni con la Daddario. Sì, le intercettazioni con la Daddario, sì, certo. Sono tutte candidate, tutte quelle che sono passate dal letto di Berlusconi sono candidate ovunque, Alex. Sono candidate ed elette ovunque. Non tutte, perché dice tutte? Non tutte. Comunque, vabbè, ma Alex, allora, qual è il punto? Non ho capito, qual è il punto? Ecco il punto, vede. Allora, l'intervento di Grillo che ha fatto ascoltare ieri Santoro... Sì. Era incentrato su argomenti seri, ad esempio lo scudo fiscale. Il Grillo dal palco si rivolgeva a un ipotetico imprenditore, no? Diceva, lei è imprenditore che paga il 50% di tasse, grazie allo scudo fiscale un suo concorrente potrà rientrare i capitali che hai evaso all'estero pagando soldi. Non mi pare un argomento ma lo faccio ascoltare, se vuole che lo faccia ascoltare o pensa che non l'abbia fatto ascoltare perché questa era radio di Confindustria, lei si sbaglia, perché adesso glielo metto questo qua, ma glielo metto, non ho problemi, ma non mi pareva un argomento di grandissima attualità, insomma, lo scudo fiscale, abbia pazienza, un argomento ormai. Però le prostitute invece sì. Ma no, ma quello era per far capire ogni tanto il ragionamento di Grillo qual è. il fatto che chiama ancora italiani, perché ancora io non ho capito qual è il confine tra la comicità e la politica, capito? Io questo volevo far passare come messaggio, comunque come provocazione da raccogliere. Lei l'ha raccolta e io sono contento che lei l'ha raccolta, sì, ed è qui. Ma Grillo è libero di continuare a fare il fondo dal momento che... Ma certo, ma è libero di fare qualsiasi cosa, politica, comicità, tutto. Lui non si candida. Ho capito, guardi che dietro quel palco c'è scritto Movimento 5 Stelle di Grillo, non si candida, ma insomma da qualche parte ci sarà la mano di Grillo nel Movimento 5 Stelle o no? O è strano? Certo, allora, se non si candida qualcuno per conto per lui, diciamo, che si ispira alle sue idee, no? Non è che uno può essere troppo... Lui fa da focalizzatore, però sono gli altri che sono i ragazzi. Beh, ho capito, ma che significa fa da focalizzatore? Fa da ispiratore a un po' di persone che poi ragionano con la testa loro, certo, non è che... Esattamente, quindi se lei magari, ecco, cerca sempre di ridicolizzare. Ma io non tento di ridicolizzare, io non voglio ridicolizzare nessuno. Guardi che noi questa sera dovevamo chiamare, tra l'altro, poi lo faremo la prossima settimana, quello che è stato candidato in Emilia Romagna, che ha preso il 7%. Il primo giorno abbiamo invitato Bono, che ha preso il 4%, e non mi pare che lo volevamo ridicolizzare o che l'abbiamo ridicolizzato. Abbiamo discusso tranquillamente del successo elettorale, di quello che è accaduto in Piemonte. Per cui, grazie, oggi che non c'è nessuno di loro in diretta, voi dovete sentire. Dire invece di quello che vuole, insomma, alle spalle di queste persone. Ma di che sta parlando? Io non sto parlando affatto male del Movimento 5 Stelle di Grillo, lei sta inventando una cosa che non esiste. Sonia Alfano, buonasera. Ha ridicolizzato Grillo. Ma io ridicolizzo Grillo per quello che dice, sarò padrone di farlo o no? Potrò fare o no? Sì, lei dice sempre lo potrò fare o non lo potrò fare? Sarà possibile ogni tanto criticare Grillo per le cose che dice, per il modo in cui le dice, oppure è proibito? Ma no, però perché deve dire questo? Non faccia vittimismo. Ma io non però sto facendo vittimismo. Però poi gli ascoltatori che sentono solo quello che lei vuole far mandare in onda hanno una percezione sbagliata. E avranno una percezione sbagliata, ma questa è una trasmissione in cui si possono avere tante percezioni, alcune sbagliate, alcune meno. Si va avanti a percezioni. Sonia Alfano, buonasera. Buonasera. Come sta? Bene. Senta, stanca, ma perché De Magistris e Grillo litigano? Ah, io non so, in effetti è una brutta situazione, mi dispiace veramente tanto quello che è successo, spero e credo, insomma, che ci saranno le possibilità e soprattutto la necessità di chiarirsi. Ma lei pensa che si può fare quello che De Magistris ha prospettato in un'intervista al Fatto, cioè dire un movimento che vada anche al di là dell'Italia dei Valori, cui lei appartiene, anche se da indipendente, diciamo, come parlamentare europeo, un movimento che possa mettere dentro l'Italia dei Valori, appunto il Movimento a 5 Stelle? Insomma, Grillo non sembra molto d'accordo. No, ma per carità, ognuno poi è ovvio decide di fare il percorso che ritiene più opportuno, però non trovo l'idea di Luigi un'idea sbagliata, perché ci lamentiamo sempre che in Italia la sinistra, l'opposizione non esiste, che è divisa, che è frammentata e che ha perso credibilità perché non è stata in grado di ricompattarsi e di dare delle risposte nette una volta che arriva un'idea rivolta alla parte migliore di quella che dovrebbe essere non soltanto la parte dei partiti, ma anche la parte della società civile. Lui si è rivolto al popolo viola, a tutti i movimenti, e si è rivolto anche appunto al Movimento 5 Stelle. E Grillo gli ha risposto un po' maluccio, devo dire, no? Lei da che parte sta, diciamo? No, non voglio stare... Guardi, per me è veramente una brutta situazione, perché sono amici tutti e due. Ecco, ma perché lei dice una brutta situazione? Brutto perché comunque riconosco che c'è stata qualcosa che non si riesce a capire. Cioè Grillo, per esempio, rimprovera De Magistris di non fare il suo mestiere, che è quello di parlamentare europeo, di non occuparsi delle cose per ma le quali non era stato eletto. Ma io non credo volesse dire realmente questo, perché Luigi lavora tanto, io lo vedo, è innegabile. Poi, ringraziando Dio, c'è la rete, basta andare sul sito del Parlamento Europeo. Ma è troppo in televisione, secondo lei? Ma no, ma viva Dio che ci sta in televisione, così si ha anche la possibilità di sentire qualcun altro. Voglio dire, non si può adesso criticare Luigi perché va in televisione. Io mi lamenterei se Luigi non ci andasse, ecco. Mi lamenterei esattamente del contrario. Allora, ho la pubblicità, poi riprendo subito con lei, Eccoci qui, 20:34, 800 24 00 24. Siamo in collegamento con Sonia Alfano, che è eurodeputato dell'Italia dei Valori. Allora, Alfano, le voglio chiedere una cosa. L'idea di De Magistris, un po' per far capire agli ascoltatori, se no pensano che siamo diventati pazzi e magari stiamo parlando del nulla. L'idea di De Magistris è quella di convocare, diciamo, dopo le elezioni regionali, una sorta di grande conferenza per raccogliere diverse forze. Cioè, che vanno più o meno da Vendola, l'Italia dei Valori, il Popolo Viola, eccetera, eccetera, per creare magari un soggetto politico nuovo. A un certo punto è intervenuto Grillo, il quale ha detto dal suo blog: Luigi De Magistris è stato eletto con i voti dell'Italia dei Valori e del blog. L'obiettivo era di avere un eurodeputato a Bruxelles e non in televisione. Fare luce sui capitali mafiosi in Europa e sui finanziamenti europei in Italia attraverso la rete ogni giorno. Un lavoro che fatto a tempo pieno non consentirebbe neppure di vedere la famiglia. È stato eletto come indipendente e poi ha preso la tessera in TV. Parla a nome del Movimento 5 Stelle senza averne l'autorità. Il Popolo Viola, chi è? Con le manifestazioni sovvenzionate dai partiti, è per lui un punto di riferimento. I passi se li faccia da solo, questo ha detto. Ora, vorrei capire una cosa. Lei è d'accordo con De Magistris quando De Magistris dice che bisogna fare un grande movimento, bisogna andare al di là dell'Italia dei Valori, insomma fare un soggetto politico nuovo che vada da Vendola fino, che so, al Popolo Viola? Ah, io sono d'accordo, perché bisogna, secondo me, concentrare le realtà migliori. Andare oltre i partiti, quindi concentrare anche le realtà della società civile, quindi dei movimenti, se davvero vogliamo fare qualcosa di concreto in questo paese, se davvero ci rendiamo conto che c'è un problema di difesa della democrazia e della nostra Costituzione, bisogna anche cominciare a mettere in campo non sempre solo le stesse persone e i partiti. Io credo che quello che voglia fare Luigi sia esattamente questo. Poi, tra le altre cose, Beppe Grillo ha delle idee straordinarie, noi stiamo cercando di metterle in atto. La scorsa settimana al Parlamento ho fatto io un intervento proprio io sul Parlamento pulito, abbiamo fatto sia io che Luigi varie interrogazioni e atti parlamentari contro gli inceneritori, contro i regassificatori, le centrali nucleari. Però mi scusi, quando pubblica. Grillo usa certi termini anche nei confronti del Partito Democratico, siccome poi ci si deve confrontare con la politica e con le alleanze, perché Grillo, insomma, sì, parla un po' da questo punto di vista da capopopolo, ma non lo dico in senso negativo, dunque attacca sprombattuto tutti i partiti e soprattutto il Partito Democratico, eccetera eccetera. Voi in questo momento in varie realtà siete alleati del Partito Democratico, insomma mi sembra una posizione abbastanza inconciliabile. No, aspetti però, perché c'è una si ricorda proprio lei mi ha intervistato quando c'è stata quella discussione che vedeva protagonista De Luca. Sì, come no, certo. Ecco. Ma io credo che la nostra forza in questo senso sia proprio il continuare ad essere critici e il continuare a essere una voce fuori dal coro. Ma questo d'accordo, però la critica di Grillo nei confronti del Partito Democratico non è la critica che fate voi, la critica che fa Grillo, insomma, è molto più pesante sul Partito Democratico. Lui parla di un PD senza il PDL senza la L, insomma. Io devo dire la verità. È d'accordo con Grillo? Mi fa piacere, mi sta facendo questa domanda perché voglio spiegare. Ma quando il PD, il Partito Democratico, si è trovato al governo, aveva avuto la possibilità di affrontare problemi come quello del conflitto di interessi o la legge elettorale, non l'ha fatto. Quindi sotto questo aspetto io mi trovo veramente d'accordo, perché oggi discutiamo di cose, allora ci lamentiamo del fatto che andiamo a votare e non abbiamo la possibilità di esprimere una preferenza. Ci lamentiamo del fatto che c'è una persona che detiene il monopolio, come Berlusconi, che detiene il monopolio dell'informazione pubblica e privata, e di case editrici, giornali, radio, eccetera. Però quando la sinistra, e mi riferisco proprio a quello che adesso è Partito Democratico, ma prima era sempre la stessa identità politica, è stata al governo, non ha fatto assolutamente nulla per ritoccare, per rivedere queste situazioni. Per cui io su questo aspetto... Comunque lei dice tutti insieme possiamo contare di più del Partito Democratico. No, tutti insieme no. Io vorrei gli spaccati, le persone migliori. Io credo che Luigi abbia fatto riferimento a queste realtà. Ha parlato di Vendola, ha parlato di Popolo Viola, ha parlato di Movimento a 5 Stelle e di movimenti. Insomma, secondo lei l'Italia dei Valori in cosa può trasformarsi? Lei ha già in mente un nome, cioè Di Pietro è d'accordo soprattutto? Si può? No, non lo so, non abbiamo mai che si pensa a un nome. Io credo che Luigi abbia lanciato una proposta, cioè visto che Vendola, sa da cosa nasce secondo me? Il fatto che Vendola abbia dimostrato, soprattutto al suo stesso partito, perché ci ricordiamo com'è andata, Vendola non lo voleva il PD, sì, Vendola certo. Ce la fa, ecco. Allora, quella è stata la dimostrazione che se uno governa bene, ha delle buone idee e fa gli interessi di un popolo, e nel caso suo di una regione, va contro tutte le logiche di partito, la gente lo capisce e lo premia. Secondo me tra Vendola e Grillo c'è un abisso, le dico solo questo. No, ma non si può fare il paragone tra Vendola e Grillo, perché sono due persone. No, ma come prospettiva, come idee, come approccio alla politica. Ma la non era rivolta a Grillo. Siccome De Magistris si dice che bisogna andare da Vendola a Grillo, allora... No, è inteso come il mondo che orbita intorno al blog di Grillo, ma Grillo ha sempre detto che non intende fare politica, che non intende fare politica in maniera insomma attiva, non intende lui personalmente candidarsi. Questo è un po', però, un po' un'ambiguità, prima lo facevo notare anche con l'ascoltatore. Io credo che lui abbia una dote straordinaria nel fare da detonatore e nel cercare di svegliare le persone, magari anche con toni forti, come ha detto lei poco fa, per cercare di svegliarle e di spingerle ad assumersi delle responsabilità, perché il punto è proprio questo, secondo me. Oggi la gente è lontana dalla politica, e giustamente, sottolineo io, perché gli esempi che ci sono stati non è che siano stati granché o esempi appassionanti, esempi coinvolgenti, quindi la gente, soprattutto i giovani, si sono allontanati. Il punto fondamentalmente è questo, è quello che credo io cerca di fare Beppe, è proprio quello di coinvolgere la gente, di fargli capire che c'è un paese che ha bisogno della partecipazione di tutti i cittadini. Però mi sembra che insomma la questione sia seria, cioè questa rottura, chiamiamola così, tra De Magistris e Grillo, chissà come finirà. Grazie, sono Io stima di tutte e due, sono certa che si chiariranno e che si... Ha chiesto un incontro De Magistris, magari lei faccia da intermediaria, non lo so. Da... Sarò ben lieta di poterlo fare, ma loro due si capiscono bene. No, magari se lei è presente, sa, insomma, magari... Cosa? Se lei è presente al momento dell'incontro, magari è la cosa è più semplice. Grazie, buona serata. Lei, 20 e 40, 800 24 00 24, TG2. Il ministro... Non c'è il TG2? Sì, eccolo qua. Il governatore del Piemonte Cota frena sulla pillola abortiva. Non andrò contro la legge. Richiamo del ministro della Salute Fazio sul rispetto delle norme. Fra poco la Via Crucis con Benedetto XVI. Il predicatore pontificio paragona gli attacchi al Papa sui casi di pedofilia a quelli contro gli ebrei. Allarme valanghe sulle Alpi, 3 morti in poche ore, gli smottamenti per l'innalzamento delle temperature, sulle partenze di Pasqua pesa il caro benzina. È morto a 68 anni Harry Edward Roberts, il padre del personal computer, fece la fortuna dei fondatori di Microsoft, Bill Gates e Paul Allen, ma lui preferì fare il medico in campagna. Al processo di Calciopoli, la difesa di Luciano Moggi deposita le telefonate fra il presidente dell'Inter Moratti e il designatore Bergamo e Vieri chiede di revocare all'Inter lo scudetto 2006. Va bene, Giovanni da Roma, poi Alba da Roma, Massimiliano Provincia di Milano, Alessandro da Savona, Mirko da Bologna. Giovanni, buonasera. Buonasera, finalmente. Dica. Ciao Giuseppe, no niente, allora volevo parlare praticamente dell'articolo di Fini. Sì, dica. No, praticamente mi sembra evidente che sia una trovata pubblicitaria, niente di più. Può darsi? Molto probabile, perché comunque sì, è un articolo ben fatto, però molto fatto di luoghi comuni, e che dice sì, verità, però mi sembra proprio pronto per il teatrino di domenica di Giletti. Cioè una lei cosa dice, vedremo. Grazie, abbassi la radio perché altrimenti... La prossima volta sentiamo... È completamente spenta, veramente. Grazie. Alba da Roma. Volevo intervenire a proposito dell'articolo di Massimo Fini, sì. Che condivido quasi completamente. E come mai? Lo condivido perché descrive una donna estremamente poliedrica, sfaccettata e ricca di sfumature, una donna tridimensionale contrapposta all'uomo bidimensionale. Personalmente ho dovuto, nel momento in cui dice che la donna è l'arabesco, l'uomo è la riga fra due punti, chiaramente sta esaltando una ricchezza che la donna ha. Cioè l'insondabilità, l'imprevedibilità della donna rispetto alla linearità dell'uomo. Esatto, quindi comunque la scoperta, la curiosità che una donna sa evidentemente suscitare, un uomo no, quindi io ritengo che sia comunque un complimento fatto alle donne. Non concordo solamente sull'ultima parte, allora premesso che i complimenti, come lui dice, li acchiappo anch'io finché ne vengono, quindi va benissimo, so riconoscere però esattamente quali sono i limiti dello stalking e della molestia sessuale. Beh, infatti, questo. Quindi non mi sognerei mai per una carezza sui capelli o una telefonata di rivolgersi al magistrato, insomma. Assolutamente, o ai quindi, carabinieri. E la conclusione, invece un po', diciamo, guardi, la conclusione lasciamo perdere. No, no, la conclusione io l'ho arricchita, perché quando successe mesi fa si parlò tanto del perché gli uomini andassero con i trans, io avevo delineato una ipotesi molto simile a quella che ha fatto Massimo Fini, lui l'ha conclusa in un'altra maniera, io dicevo sarà forse che nei trans cercano quel bisogno di tenerezza, di dolcezza che le donne non sono più capaci di esprimere, quindi ecco, io avrei proposto una soluzione alternativa. Beh, insomma, però tra i trans e la siepe e il soddisfarsi da soli dietro la siepe c'è un abisso, o no? Sì, c'è un abisso, e questo che probabilmente secondo me non esce dal discorso di Massimo Fini, che vuole esprimere una sorta di autosufficienza maschile che io invece non riconosco. Questo bisogno di tenerezza, a mio avviso, gli uomini ancora ce l'hanno. Quindi, bene, grazie Alba, grazie. Prego, arrivederci. Alessandro da Savona. Buonasera. Dica. Volevo intervenire su Grillo, non per essere... È ripetitivo, perché ho già sentito alcune cose che condivido e altre che invece vorrei dire. Secondo me lui è un personaggio che sa fare molto bene il suo lavoro, non è chiaramente il politico. Della politica lui ne fa una satira, che è argomento sicuramente più che interessante e vario in Italia. E si esprime come si esprime normalmente quando a teatro fa le sue performance. E quindi utilizza un metodo che conosce molto bene, secondo me non potrebbe fare diversamente, perché magari non avrebbe l'appeal e il risultato che non sarebbe il risultato che ottiene comportandosi come normalmente si comporta ad ogni suo spettacolo. Ho capito. No, lei dice che l'unico modo in cui sa esprimersi Grillo è quello, è inutile volerlo irregimentare in qualcosa. Cioè in un linguaggio istituzionale, in un linguaggio, esatto, diciamo nel politichese, eccetera. Cosa ci possiamo aspettare se non quello, giusto? Certo, ma in senso positivo, non è... Vabbè, adesso al di là di positivo o negativo, però insomma non bisogna menarsela troppo con le parolacce, con queste cose qui. Grillo si esprime così perché sa esprimersi solo così. Effettivamente, diciamo, un'intervista posata a Grillo io non l'ho mai sentita, sì, forse... recentemente qualcosina, ma quando fa delle interviste tradizionali non si esprime al massimo, no? Sì, è proprio il suo modo di essere, e oltretutto anche io ho visto quelle immagini che ha fatto vedere andare uno zero, dove lui era su questo canotto, che comunque fa parte del suo repertorio, cioè lui coinvolge la massa, le persone, chi lo va a vedere allo spettacolo, perché comunque riesce a esprimere dei concetti in un modo diretto, violento, che se vuole molte persone vorrebbero fare, ma magari non hanno né la possibilità né il coraggio di poterlo dire e fare in quel modo lì. Capisce? Ho capito. Eccoci, ultimi minuti della Zanzara, 800 24 00 24. Marco da Genova, buonasera. Interventi sì, leggermente più brevi, dobbiamo... Sì, sarò brevissimo. Buonasera Gruciani. Buonasera. Le volevo solo dire che ieri sera ho visto Anno Zero. Sì. E ho sentito adesso poi i vari commenti che avete fatto su Grill e tutto. E io mi sono divertito tantissimo a guardare la trasmissione, che per me è abbastanza raro. Primo perché non guardo mai la televisione, sono preferibilmente un radioascoltatore, e secondo perché comunque divertirsi con un programma di approfondimento non è facile, secondo me. No, questo... certo, lei ha ragione, poi ad Anno Zero c'è anche grande intrattenimento. Sì, intrattenimento, infatti forse il mio intervento era per fare un plauso a Santoro, che comunque è riuscito a dettare dei tempi, a inserire dei comici, dei personaggi che sono comici e fanno politica come Grillo, sì, che comunque è fatto così, quindi bisogna prendere solo così, però porta avanti dei temi che sono estremamente importanti per tutti, non solo per Grillo o per la politica, perché affronta sempre dei temi sull'ecosistema, sull'inquinamento. Ho capito. Senta Marco, l'ascoltatore di prima ci ha detto: perché non avete mandato in onda il Grillo sullo scudo fiscale? Eccolo qui. Il ministro delle finanze della Grecia, fallita, ha detto: bisogna fare come il ministro delle finanze italiano per risollevarci. Dobbiamo fare lo scudo fiscale. Noi abbiamo fatto la più grande portata che mai in 50 anni di Repubblica sia mai stata fatta. Pulire denaro sporco votato da tutta Italia, da tutto il mondo, col 5% anonimo. L'avessero fatto come gli Stati Uniti, 20% però nominativo. 20% potevamo accettarlo, 5% di nascosto, anonimo. Cazzo, questo è il libero mercato, questo è il libero mercato da noi. Vuol dire che se tu fai l'imprenditore, che hai pagato il 50% di tasse, ti sei comportato bene, sei stato onesto tutta la vita, il tuo concorrente, tu ci paghi il 50, lui il 5, e questa è la concorrenza che ti fai. Allora le persone oneste così stanno scomparendo e fanno bene, perché per sopravvivere qui bisogna essere disonesti più di loro. E quando c'è da andare a votare lo scudo fiscale, quando c'è da andare a votare i partiti dei lavoratori, il grande PD, quello vicino alla gente, 22 non ci sono andati, potevano far cadere il governo Berlusconi, sono andati via. Questo era Grillo, io non sono d'accordo nella maniera più assoluta sullo scudo fiscale, non perché non ci siano delle cose da dire su come viene fatto eccetera, sarebbe una discussione lunghissima, però lo volevamo proporre perché l'ascoltatore di prima ci ha detto: perché non avete fatto sentire questa cosa di Grillo? Noi facciamo sentire delle cose a seconda di quello che ci viene in mente, delle provocazioni che vogliamo fare. No, Riccardo, Marco, dica. Sì, volevo dire, certamente, però la cosa da sottolineare è anche il fatto che Fede a un certo punto se ne sia andato. Ma se n'è andato, ma era già programmato questo suo andare. Ma io questo francamente non lo so. Se n'è andato perché a un certo punto si è scocciato di sentire le parolacce di Grillo in quel servizio e se n'è andato. Non lo so, non è molto interessante il fatto che se ne sia andato Fede. Può darsi pure che avesse in mente di andarsene e ha poi trovato il momento migliore per farlo. Riccardo da Firenze, buonasera. Sì, buonasera, senta. Io mi sono sfilato dall'UDC come vice segretario regionale. Lei era vice segretario regionale dell'UDC? Sì, signore. E perché questo partito Casini lo continua a condizionare come fosse una canna al vento e a me non va bene. Ma lei si è dimesso? Prego? Si è dimesso? Sì, sì, sì, io mi sono sfilato, non le dirò di più. Ma da quando, Riccardo, mi scusi, da quando? Ma da qualche mese. Da qualche non mese. Non ho voluto più di essere coinvolto perché non mi piace, è inutile dire ma sui programmi ci confrontiamo, vediamo. Qui si tratta di dare l'impostazione di un partito a livello nazionale e pertanto Casini non può essere con due piedi su due scarpe diverse, poi tutti gli interessi tra virgolette, vedi la Puglia per l'acquedotto con Vendola, non Vendola, è suo suocero, non suo suocero, qualcosa a me non mi sta bene. Per quanto riguarda... Ma adesso che succede dopo queste elezioni? Secondo lei esce un po' ridimensionata questa strategia che è stata chiamata del doppio forno, no? Sì. Esce un po' ridimensionata questa strategia? Ma per conto mio sì. Però in Toscana, non... in Toscana voi... Voi, insomma, quelli dell'UDC sono andati da soli, no? Sono andati da soli, purtroppo sono andati da soli, grazie anche a questa imputazione politica di Bosi, che è stato il candidato presidente. Sì. Altro buono, ecco, un altro discorso che a me non va bene e che vorrei la politica cambiasse, che non, un uomo può essere bravo e buono per tutte le stagioni, il politico non può essere buono e bravo per tutte le stagioni. Dopo un po' di legislazione, di legislatore, il politico deve tornare. Ma sì, non conosco la realtà locale, però insomma lei rimprovera. Ma la realtà locale, questo Bosi ha fatto 5 legislature, ha fatto 3 legislature come consigliere regionale, ma Dio, questo è attaccato alla poltrona con l'attacco, ha capito? Rinnovamento, quale rinnovamento? Senta Riccardo, ma insomma secondo lei in 20 secondi adesso la strategia di Casini quale potrebbe essere? Ma se sei Casini è di mangiare nei piatti in cui... Aspettare la fine di Berlusconi, questa è la realtà. Sì, ma capisce... Si vive nella grande attesa della fine di Berlusconi. Esatto, e poi è importante questo. Lei la pensa come la politica, come un servizio. Ecco, io vorrei dire che a un certo punto, dopo 2 legislature, il politico deve tornare a fare quello che faceva. Ho capito. E invece qui ci sono politici che fanno 3, 4, 5, 10, 15 legislature e non va bene. Quindi, ho capito. È una vergogna. Va bene, grazie. Riccardo, grazie. Massimiliano, provincia di Milano, veloce. Sì, buonasera. Dica. Volevo dire che la Santarché, mi riferivo a quello che avete fatto sentire all'inizio. Sì. Innanzitutto non è stata alle ultime politiche non è stata votata col PDL. Sì, questo è noto, Massimiliano. ma poi adesso è stata anche... È tornata adesso nel PDL ed è stata nominata sottosegretario, allora? È bravo. E un'altra cosa che dice dell'uscinità di Santoro, sì, tutte sì, queste cose qua, che è preoccupata per i suoi figli. Ma scusi, se va in televisione e si fa vedere col dito alzato, ma come... Lei dice, anche lei è stata in alcuni momenti piuttosto volgare. La ringrazio, Massimiliano. Laura da Lecce. Crociani. Dica. Articolo di Fini o Fitto Vendola, cosa preferisce? Quello che vuole lei. Non ci interessiamo, parliamo di Fini. Penso che la solitudine che emerge da quell'articolo, la solitudine nell'uomo, è esattamente speculare a quella della donna, che la difficoltà di comunicare fra i due sessi c'è sempre stata probabilmente, è solo che prima si accettava, adesso non si accetta più, forse. Lei dice, eh? È Fitto Vendola che mi voleva dire, che è colpa di Fitto? Fitto Vendola, penso, no, Fitto ha fatto la scelta migliore, è stato di una coerenza... Devo dire, ma come la scelta migliore? Berlusconi voleva la Poliportone, con la Poliportone forse il centrodestra avrebbe vinto. La Poliportone non ce l'avrebbe fatta, perché la Poliportone ha preso 57.000 voti e non avrebbe coperto i 136 di differenza fra Palese e Vendola, che sono pochi fra l'altro secondo me. Come percentuale credo che la Poliportone... Per me percentuale erano 6 punti quella differenza fra Fitto e Vendola. E lei ha preso l'8%. Ma l'avrebbe coperto l'UDC, ma quelli sono i punti dell'UDC, non della Poliportone. E beh, l'UDC Poliportone... si sarebbe alleata lo stesso con la Poliportone. Non lo so, è vero che non si possono sommare così poi i voti in maniera così semplice. Laura, devo chiudere, ci sentiamo lunedì con la Zanzara, non ci sarò io in conduzione. Il sottoscritto torna martedì 18:30. Ciao, buona Pasqua. La Zanzara.